come si chiama? Allora, io mi chiamo Rosaria dal Pra e abito a Folgaria. Sono cresciuta qua, vivo qua da sempre e ho scelto di rimanere qua. Che lavoro fa? Allora, io gestisco questo hotel e gestisco un bar sulle piste da sci. Per cui io collaboro con i miei collaboratori, insomma, lavoro con un team di persone con i quali formiamo una squadra, che è una delle cose più importanti in qualsiasi tipo di lavoro. Cosa fai di solito? Di solito la mia giornata tipo, vengo qua, controllo un pochino che l'impostazione generale sia come deve essere, insomma che non ci siano stati problemi la sera prima, saluto un po' i ragazzi, vedo se ci sono problemi, magari qualcuno che non sta bene, qualche imprevisto, la lavastoviglie che si rompe, qualcosa che succede sempre. E mi occupo un attimo di controllare le recensioni, i conti, se i clienti sono contenti, se tutto è tranquillo, diciamo che il mio lavoro è fatto, il di più del mio lavoro è fatto per cominciare la giornata. E arriva la mia collega che mi dà il cambio su quello che è l'ordinario, perché anche un hotel funziona un po' come, non dico come una fabbrica, però è impostato in modo abbastanza regolare, per cui ognuno ha dei suoi ruoli che sa svolgere e da lì possono imparare a crescere. Ha fatto altri lavori in passato? Ho fatto? Sì, ha fatto altri lavori in passato. Allora, io ho lavorato, ho fatto la segretaria alle scuole sci, poi ho lavorato per un periodo in città, dove ho fatto la segretaria di uno studio medico, poi sono tornata qua, nell'anno in cui costruivamo questo ho lavorato con mio suocero nel negozio alimentare, ho fatto la cassiera. E qualche anno prima, quando ero un po' più giovane, ho venduto i biglietti degli ski pass. Perché hai scelto questo lavoro? Perché qua conosci un sacco di gente, intanto. E quello a me piace. Piace il fatto che siamo tutti un po' strani, no? Allora su questo lavoro vedi anche la stranezza delle persone, che è un lato divertente. Ogni tanto noi qua ci guardiamo, dico, noi siamo anche normali, perché quando uno viene in ferie vedi un pochino com'è. E puoi permettergli di fargli scoprire il tuo territorio, perché una persona viene qua e non conosce Folgaria, non conosce l'Alpe Cimbra, e tu gli puoi dare dei consigli che solo tu gli puoi dare, perché vivi qua, lo conosci. Per cui dai l'occasione a chi non conosce questo posto di scoprirlo. Ed è una grande arma che tu hai in mano, di farli apprezzare la montagna. Infatti tante persone poi ritornano perché scoprono che la montagna non è così noiosa come a volte pensiamo anche noi, ma è molto bella, ci sono un sacco di cose che si possono fare. Per cui a me tutti questi aspetti di questo lavoro piacciono. Mi piace quando chiamano, chiedono informazioni, mi piace anche fargli i preventivi, insomma accontentarli, perché ognuno ha delle esigenze, no? Chi ha i bambini ha delle esigenze, la coppia ha un'altra esigenza, chi vuole andare a fare l'aperitivo, chi vuole andare in discoteca, chi invece ha bisogno del sentiero, deve andare col passeggino, no? È un lavoro che è molto molto ampio, per cui mi piace. Ti sei mai pentita di una tua scelta? Qualche volta davanti alle difficoltà ho pensato sì, che potevo scegliermi qualcosa di più tranquillo. Però poi è un'avventura, uno stimolo, no? Come quando a voi capita la sera prima di una prova di andare un po' in panico, no? Se non vi sentite pronti, ma poi quando vi passa quel momento le energie raddoppiano, no? Vi saltano anche in mente delle cose nuove, per cui sì, insomma, un po' di pentimento ci sta, nulla di più. Insomma, trovo che sia molto più semplice avere un lavoro tuo dove puoi anche scegliere come gestirti la giornata, piuttosto che essere un pochino obbligato tutte le mattine a dover andare in un posto di lavoro che magari ti piace sì e no, perché se è tuo in qualche modo lo puoi sempre migliorare e modellare su di te. Allora, la cosa che ho vissuto io personalmente è che è importante lo studio. Io non ho studiato tanto, non mi piaceva molto la scuola, però ne ho pagato anche le conseguenze, ci sono delle difficoltà. Adesso io mi trovo a studiare l'inglese, che lo fate voi. Ci sono delle difficoltà e non puoi tornare indietro, per cui tutti noi siamo intelligenti, anche chi non è istruito, anche chi non ha studiato. certo è che una persona intelligente che ha anche studiato ha delle possibilità in più. Per cui la prima cosa è sforzatevi di studiare, anche se non avete tanta voglia, perché questo è un'arma, vi servirà sempre, sempre. Non dovrete mai dipendere da qualcuno che tiene i vostri conti, da qualcuno che vi aiuta, perché potrete capire le carte da soli, ma anche in casa. Il seguire le vostre passioni, come dovreste provare ad andare a fare qualche lavoro, no? Quello che io sto sperimentando sulle mie figlie, no? Tu vuoi fare, io li sto provando a far fare i lavapiatti o le cameriere, e tu puoi subito definire quello che tu non vuoi essere e intanto partire da lì. Tanto perché se non studi non hai la scelta la possibilità di scegliere. Uno che non studia la geografia, per esempio, come puoi sognare dopo di andare a lavorare in un'agenzia viaggi? O se non studi le lingue, come fai a fare un lavoro, come fai a viaggiare, come fai a fare qualsiasi lavoro? Bisogna capire intanto quello che non volete essere. Se non avete ancora ben chiaro, che non lo avete di sicuro, magari se uno ha un sogno coltiva quello, perché è la cosa più importante secondo me. Ma se non sapete cosa vorrete fare da grande, intanto cominciate a capire quello che non vi va di fare, ok? Vi piacerebbe passare magari tutta la giornata a lavare i piatti? No, bisogna studiare per fare qualcosa di più, eh? Mi piacerebbe, non lo so, fare i camerieri, lavorare la sera? Sì, no, è bello, è bellissimo, se ti piace, sei un appassionato di vini, è molto bello servire gli ospiti, spiegargli, trasmettergli la tua passione. Devo capire un pochino cosa vi piace e poi da lì vedrete che vi viene l'ispirazione di... Certo, bisogna provare anche quello che non piace, perché quello vi permette di cambiare strada. Quando una cosa non piace, voi sapete subito che lì non ci volete andare. Bisogna provare. Che te hai iniziato a fare il suo lavoro? Io ho cominciato a lavorare a 14 anni, quando si poteva fare la cameriera. Questo lavoro qua adesso lo faccio da 15 anni. Ho ancora dei sogni da portare avanti, per cui spero nel mio futuro, anche se questo lavoro mi piace, di fare ancora qualcosa di nuovo, di non fermarmi qua. Ancora nella testolina qualcosa che mi gira, qualche idea che vorrei realizzare e che mi porterà un attimino fuori da qua, insomma. C'è una domanda laggiù? Qual era il tuo sogno da bambino? Oddio. Il mio sogno di bambina forse era di viaggiare, forse perché dopo ne ho avuti diversi, però quello più bello era di potermi spostare, che in parte con questo lavoro si può realizzare, perché è un lavoro che va un po' al contrario qua alla vita, no? Dove i tuoi amici fanno festa, tu lavori, quando gli altri sono liberi tu sei impegnata, per cui tu hai una vita tutta un po' al rovescio, che non vuol dire che è brutto, vuol dire che è proprio speciale, particolare, tu puoi fare tutte le tue cose quando gli altri non possono in realtà. Però ti permette di avere un sacco di tempo libero.